Chi è? Chi è? Avanti. Chi è? Chi è? Chi è? Venga avanti, aiuto. Avanti. Sa. Chi c'è in questo canale? Sa. Sa. Chi c'è in questo canale? Avanti, chi è? Avanti. Chi è? Chi è? Avanti, chi è? Avanti, chi è? Non ti ascolto, Ma ascolti? Adesso sì, chi sei? Chi ti sei? Natalino. Ah? Natalino, chi sei? Ascolti. Attenzione Natalino, ci sei? Sento Natale. C'è nessuno? Te lo bei. A te un attimo, batti. Figa c'è il centro. Oh, bene, bene. Chi è che soffia? Eia! Perché non puoi soffiare? Oggi tutti morti, manco un cane se sentite tutta la gira accesa in antenna. Tutti morti. Sì, sì, bene, bene, bene, bene. Andava, andava. E qualcosa quanto ti è venuto a costare a fare per misurare? Dico, quanto ti è venuto a costare? E là ci metti 40 euro su internet e qui ci sono quattro riduttori ci sono. Gli spinucci, cosa li vuoi chiamare? C'è un rettangolare lungo, c'è un'entrata e un'uscita e sopra c'è il display frontale e un tastino. Oppure c'hai quello, come c'è la, com'è quello? Così. Ah, e tu quel tipo ti hai preso, ma c'è anche quello lungo rettangolare, l'hai visto? Quello costa sulle 40 euro. E quello lì, anche da 40 euro, due tipi ne ho visto. Quello con tre tastini colorati e quello con tre tastini senza essere colorati. Ma secondo me non sono affidabili. Fare il giocattolo. Io ne ho uno, però è della 27. Un'entrata all'uscita è nero, ma va venduto una taglia, è già buono questo, ed è quadrato, c'ha l'interruttore, cioè due ferro. No, della 27 è quadrato, c'ha al fianco un'entrata, all'altro fianco l'uscita, però è della 27. Poi ne ho di rosso, uno in plastica, c'è plastica, che è nuovo nuovo questo, sempre della 27, e poi c'è quello della Z-Taggi che mi aveva dato Gianmarco. No, però TMR non ce l'ho, ma lo devo comprare. Quello della Z-Taggi sì, c'ho quello, che è color verde militare, là, scusa. Poi ne avevo comprato uno per portarmelo in macchina, quando mi capitava in macchina, è in plastica, sarà 10 cm di lunghezza e 6-7 di altezza. Quello è tutto in plastica, però già funziona lo stesso, è nuovo nuovo, ce l'ho dentro la scatoletta ancora. Sarà stanco, si era Budenni oggi in campagna, cioè è due la Budenni, l'altro era in travaglietti. E a se sa quello. Ma lui si stanca anche guardando. Ehi, marito, rini romattesse di braccio, anche, andando in turrenne, con gozzo, appena ci ha accudazzato. E dunque, va, è tutta dolore del tracco. Ehi, furalinga, papara, un piatto a furia di da comandi, sempre va vitegne, chi ti è nata la punta dell'albero del duioso. E fa vitegni, e dunque, noi che portuve. Oh, quel cristiano è inaffidabile, è poco da affidabile, non si può fidare di quello lì, puntuale mi ha gli appuntamenti. E allora, non va mai, secondo me va l'amante. Allora, Catta, buonasera, Catta, grazie a sempre di Zenni Goja, sai, io mi meraviglio di Deo. A chi fa faccia latte bisogna farvi da mare di te, allora da Ciali, a Romeli, vero Bacchi? Romeli, questa è parato a parlarci di porco, non è solo Antonello il porco, no? A voglia, benissimo, limpido. Qua, questa antenna qua. È buono, è buonissimo, E chi dà invece, oggi vi ha giù misurata a un SI. E poi che ci hanno dato bannuta io quasi. Ah, si sa. Voglio vedere quando fa sole a vedere, a tornare a misurare, a vedere se c'ha umidità. Anche umidità stazionaria c'è il sole. No, è quella che mi ha costruito Luca, in quella lì ci sono stazionarie. Oggi ne ha un SI, l'ho misurato stamattina, ce l'aveva un SI. Ma la partita non esiste, la giocherà da Luca. Un bagata, viaggio, la di chi mette la mano, ritira un gozzo. Infatti, ma già rimane il gozzo. Se c'ho quando tolgo fuori la Gran Prima la faccio io e poi vediamo. Ma cosa te la compri, te la è fatta giusta, tutta misurata e tutta, poi me la dico parata, quella base magnetica della 27 è un treno ed è perfetta, solo nel radione grande non va bene, perché adesso non so perché c'è già inserito il rosmet all'interno e non mi segna aiuto, compreso. Cioè, chi ti segna aiuto? La radio già sta tutta a fondo scala. Evidentemente non fa, perché è già incorporato nella radio. Sì, vabbè, ma io della 27 non ne ho bisogno. Naggiù 3, naggiù. A voglia. Ed anche io 3 rosmetti della 27. Cioè il ZG, uno che mi aveva venduto Natalino, piccolo, quadrato, portatile, che di marca buona. Mercury mi sembra, se non erro, la marca. E funziona benissimo. E poi ne uno nuovo, nuovo, l'avevo comprato su alla CBC, dentro la casa. Da quello l'avevo preso, perché ancora non c'avevo quello di Natalino. Per la macchina, controllare l'antenna della macchina. Capi? Quella è la più piccola ed è la più maneggevole. Ma io non è, io ti ho detto di antenne, ne ho 3 e sono 1,50 lunga in stilo d'acciaio. Ah, quella che ho preso io è 1,40, 1,40 qualche cosa, non so, ma non me la metto. Questa base magnifica ed è bellissima. Sto pagata 38 euro più le spese 40 euro, va. Ma chi? Bisogna d'antenne, va bene noi, di una macchina. Attenamente canti la ronga. Io ce l'ho qua su me in camera con i, con la cosa, con la piastra e, bah, con la piastra magnetica. Sì, attenamente ogni angolo che mi punia mette indiani sempre, mette indiani. Oh, ma chi ti sei abbassato però, ma ti sei spostato, come tonalità di voce sei più basso. Adesso già ti sento meglio, da. Ah, che se no toccava puntarmi la rete, capito mi hai? Non va a fare più se non ti tiro la coda pure a te. No, io le ho date tutte a Luca, non lo so se deve essere in garage o in un film da caffè passi, c'ho l'attorno, l'attorno si chiama, il torruccio di cupoli. No, è blu, è il cappuccetto nero, in gomma, c'ha già gli attacchi per attaccarla al tubo. Ma io mi chiamo Ruccio di Cupolo, caro Ruccio di Cupolo, sì, non di Cupolo, delle palette della Mondezza, appena più grosso, ce l'ho conservata, è nuova nuova. Prima la usavo davvero una linea divulgata, mamma mia, ah, puri, a ciambare un filo, un biele, davvero non anche più piazzato. E una cosa del genere, la vita aveva burita. Prima ve la vieno che adesso non mi ricordo se ce l'ho qua su nel soffalso o in garage. Ci sono anche le tappe adesso, avevo lasciato attaccate, so, ma pure l'attaccato, invece non ho più attaccato, e vabbè, dove ce la giù busca. Ma giù una burro da 60 centimetri di d'antenna. Ma chi? Ma giù una da 60 centimetri. Aspetta, dalla 27 ne giù una da 60 centimetri nera. La frusta nera, io l'ho data, l'ho regalata a Luca, le ho date tutte a Luca quelle antenne delle macchine. No, non era frusta nera, ho detto da 60 centimetri e... Ah, no, io pensavo la frusta nera. La frusta nera c'aveva il violino in punta rosso e un dadino da sé, mi sembra. E registravi da lì. Prova a Luca, che avrebbe una lì in garage. Da quando ero in casa di mamma, chissà, avrebbe la 127. La prima aveva cavata e ce l'avevo sempre qua in garage. No, quella lunga, la frusta nera, quella le avevo regalate, le avevo. Quella le avevo regalate tanto tempo fa. M'ho tenuto quelle in acciaio, m'ho tenuto da 1,5 metri. Una è da 1,10 metri, l'altra 1,5 metri. E ce l'ho, ne ho due di quelle. E una piccola, da 60 centimetri ne ho. E a Luca ne l'ho dato, mi sembra, una da 140, completa. Poi dell'assidio. Poi gli ho dato l'altra della macchina, l'assidio 800, completa. Poi gli ho dato un'altra, che quella me l'ha data a Giulio, però ci vuole il raccordo per avvitarlo. È completa, ma ci manca il perno dove l'avvitti. Ma già l'ho vedo la prima. E poi gli ho dato quella frusta nera. E ha girato 4 o 5, una cosa del genere, d'antenne. Tutti mi pare per aiutare, non so se ne ho altro in garage. E poi ne ho una che allora non mi ammetto quanto è lunga, che c'ha tre radiali, un 60 centimetri l'uno, e però rimangono puntati verso basso, non orizzontale. E chi c'è il mattesso in garage, chi c'è nuova, mai piazzata davanti, ma non so come ammazzo, ma come ti dici ammazzante? Eia, mi sembra sono due o tre pezzi di annesto d'alluminio e poi c'è il primo pezzo là dove incassi i tre radiali. Però rimangono obliqui verso giù, puntati verso giù, là appena aperti. Ce l'ho un saccaccio d'anni quella, tu lascio in garage a chi no che non vede, a chi mi lavia i no che mi istantaneo, lo sgabuzzino. Poi guarda che ci parla tutti in garage, deve essere giù e dentro la busta ancora, per andare a vedere, ed è il nuovo rubo. Oh, fa dammi due io, ma... La cosa mi raggiungerà da Luca, tanto chi si ti dà di 2 euro, ti vuoi regalare una cosa, ma fatela e tu la regalo così cosa, a me la botta per il tempo un macco. Ehi, ma chi? Stavo guardando l'italiana sui pattini. Sulla neve, aspetta, entra da prima. Ehi, da antenne, non me ne mancano. C'è annaggio, sì. C'è giù di punire sulla macchina, già ne ho. Quella ha vinto l'oro, già 2 euro abbiamo vinto in Italia. Quella con gli sci e la carabina. E questa con i pattini, l'hai vista tu? Adesso l'ho vista. L'ho vista adesso che è partita prima ed è arrivata prima. No, l'ho vista a mezzogiorno io. E l'altro giorno ho visto quella con gli sci che scende dalla montagna che c'ha la carabina. Poi si ferma il fare e torna a passi un razzo io. Anche quella ha fatto l'oro. Sì, vabbè. Ma di gusti, già andava e anda. Certo, ma gusti, che medaglia d'oro e arrivimo in Italia. Vabbè, ma questa medaglia mi ha preferito di più. Chissà chi l'ha vinta. Marzio che è andato. Per carità, subito a pensare umano, chi su. Bubu. Ma se ne vuoi fare un fascio, no, dici su, Bacchi. Ma secondo te cosa ti pigli, la medaglia o la etta, Bacchi? Misurai, Tore, e tu cosa ti pigli, la medaglia? Ma se siamo vavidi nelle medaglie, a chi devi vavidà in altro modo? Bobo. E non comprenda chi su. Anche io voglio la medaglia Giulia. Beh, tanta. A mai da dire, Matti. Quando me la posso pretendere la medaglia sua? No, non le voglio medaglia fatta d'uso. Non lo so qui, papà. Andiamo. Ma deve essere a che fa vedere così non verrà moglie mi Bacchi. A che fa vedere così liberamente, deve essere che non verrà moglie. Dal telefono. Sì, le proviamo tutte. Andiamo bene, andiamo in Italia. Domani pesci con l'ombrello, Vittore. A posto e vado a Sanutti. Ehi, e stasera non mangiassi sul computer. gas, ha detto che sa che entra il gas e giù, ed è acceso da ridrenata la banca. Ha detto che ha acceso un cane, una pecora, ha acceso, la leoncina ha fatto due chiamate, da voi non l'ha più inciso. Leoncino ho sentito e ha detto non c'è nessuno due volte, ma io ero per di cosa e non mi sono entrato, poi sono entrato, ho chiamato e non ha risposto nessuno, e vabbè, già me la mette in un bel film alla TV. Stavo guardando un film del Duca nella palude, c'aveva la torre ed era tutto terreno del Duca, c'erano i soldati, uno che comandava, e però poi ogni tanto venivano i vichinghi con l'accetta, ogni accetta, ogni massa, e cominciavano a pigliarne la gente dei villaggi, li mascicati di uno, li bambini tutti si sribusciavano al bai Gesù e facevano la guerra con questi, ci siamo sono i due già, senti da con le catapulche. Passava, mi ha mandato un messaggio e ha detto passa, ok, va bene, sono in casa, in alto la rimane, e non si è visto né bianca né niente, ha detto va, deve essere se farà del bruciatore in carica, riprendi tu. Il bruciatore non entra nemmanco, Edo, in civi, è che è tutto sgiarrato, mi hai compreso, l'hanno sgiarrato, vivo tutto. Sono andati a io che lavoravo in comune e faceva retromarcia e caricavo i libri, la roba degli ospedali, solo quella roba lì, con il 300, il cassone di San Camillo, al gettito, al gettito. Gli ospedali li portava al bruciatore, tutti gli ospedali. Tu si fa vedere di 30 anni fa si fa vedere. Quando quei due travagliano comunque, forse un po' di più là. Avevano il gioco, ma penso che sia sempre così il funzionamento. Non funziona più, no, è chiuso del tutto. Non funziona più, è già una ventina d'anni che si è arrato. E la roba dell'ospedale dove ce l'ha pure. Come si chiama? Ma com'è? Ma com'è? Probama. E non ricorda di più. Io portavo lì al bruciatore, ci portavo la roba degli ospedali e quando mi mettevano di servizio al mattatoio ci portavo la roba del mattatoio lì al bruciatore, anche carcasse di mucche, cavalli, gli animali non passavano al controllo, caricavano in altarugami e lì si buttavano al bruciatore. Capito? Roba. Ma va dentro un cassone di coso, mi chiuso, tutto chiuso. E lo portano a Macomere ogni due o tre giorni lo portano. Ah no, io lo facevo ogni mattina, facevo Santo Brito, l'ospedale civile, e la Secca Bianca, cioè l'ospedale rosso, no, la Secca Bianca ancora non c'era, non lo avevamo qua. Però li portavo lì a Canica, al bruciatore. Ah, la risarrabbia di Ruggiù. Boh, Andiamo qui. Quelle che ritirano con le cassette speciali, quelli vanno a Porto Torres. Da Porto Torres poi vanno a Cagliari. Io, ma chi si rifugi da giù? No, non va più di Nacca. Chissà quanto costa. Ma è una ditta specializzata, amici, sai, dal comune non vendrà nulla. Qual è un appalto tutto diverso che ha dato l'ospedale a questa gente qua, a questa ditta qua, la ritira questa ditta la roba dell'ospedale, quelle che mettono la roba speciale, che va dentro le cassette, e quelle cassette lì vanno a Porto Torres, da Porto Torres vanno a Cagliari. Vabbè. Ah, non c'entra più niente allora al comune, perché prima era il comune che faceva tutto a pulire questa zona, a svuotarle tutto. E vabbè, e vuol dire magari l'appalto, hanno vinto la gara d'appalto, magari non sarà fatto dal comune ma dallo Stato, o dalla ASL. No, è fatto dalla ASL direttamente l'appalto. E c'è questa ditta che prende le cassette con la roba speciale che ci buttano dentro, siringhe e tutto il resto. E poi ci sono le altre cassette che vanno dentro con la roba a pezzi di gozo e tutto canto, non so cosa zirampano in queste altre cassette. E va tutto dentro dei camion, dei tir, va dentro e così. Portano i furgoni stesso lì e li mettono dentro lì. Poi da lì parte a Cagliari. Già l'ho visto all'ospedale, c'hanno dei contenitori dove mettono le siringhe, dei contenitori dove mettono le bottiglie del flebo e dei contenitori dove mettono gas, ceruti, tutta roba brutta. Tutti i panni brutti, traverse, quella roba lì c'era un altro contenitore. Già l'ho visto, già anche delle scatole ci avevano con i disegni all'esterno. All'interno ci mettevano la busta e poi quando era pieno abbassavano la busta e chiudevano la scatola. Sono due tipi di scatole. Sono due tipi di scatole, uno c'è scritto roba speciale e l'altro c'è scritto meno speciale. Ma tanto questa roba che passa un bruciatore di Cagliari. Meglio così. Invece la Mondezza, qualche volta lo stesso anche la Mondezza, se a oggi l'omedidì a non ci salire, fai solo un viaggio qua, gli altri portali al bruciatore. Quando facevo il giro della Mondezza o a Lurattinoso, a Lumonte o a Sassari. Al primo viaggio mi diceva che insomma come vedi che ne arrigati un viaggio in buca, arrigheggia in buca. E poi gli altri si butta a giosa. E anche mi hanno mandato anche a scaricare una cava privata un paio di volte sulla strada della Landriga lì. Il bruciatore è chiuso minimo 30 anni a Sarrano. E allora siamo bacchi. Ok Bacchi, ci sentiamo domani, va, se tutto andrà bene, speriamo che non piovia, e vabbè, andrà bene, dai, ci sentiamo domani, ok, riprendi, grazie. Ciao Bacchi, mi raccomando, non ti abbuffare molto, tieniti leggerino per stanotte, che se no poi non dorme, gira che ti gira lui, capito mi hai? Ciao Bacchi, a domani. Buona cena e saluti a Correa. Ciao. Ok, ciao Bacchi. E Giorgi Maria è sparito, non si è sentito per niente. Tu inteso l'aiuto. Oggi no, oggi non ha acceso di gozo. E vuol dire che sta di entrare, non ha gana di entrare. E andava da. No, oggi devi andare in campagna. Sarà andato in campagna, beh, sarà così. E va bene, no? Il dovere suo ha fatto, andare a travagliare. Il dovere suo. Andava là. E allora, se no non rubavo me. Quando lo dico, ma forza devi andare, se no niente di là. Andiamo, dai. Ah, vai, cuscellimi, e le penne di musichini, come sta di canta. Ti credi che non lo conosco la pecorella? Sì, vabbè. Andiamo, dai. Vabbè. E mia, guarda, dice, va a farlo pure io, tanto ce l'ho sotto carica. E vera un puntino solo, ci stava già poi la carica. E lo davo carica. Vabbè, Tore, buonasera, buon tutto, a domani, ce la presentiamo. Fai da bravo, non fare il birichino. Ciao. Ciao, grazie, ci sentiamo domani, ok, ciao. Ciao.